ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. No, non ci siamo sbagliati, l'abbiamo rimesso da capo perché ce l'avamo dimenticati di registrare. E per un altro motivo abbiamo messo da capo, perché quando abbiamo mandato la prima sigla, quando poi ha attaccato l'ormai sempiterno di East is Red. Di Milhaven, il nostro sociologo Calzolai non c'era perché era andato a prendere un libro nella stanza, quindi non aveva sentito l'inizio di East is Red, che invece caratterizza da sempre le puntate di Parla Come Scrive. E allora, a me questa musica piace davvero tanto. Tantissimo. Sì. Peccato che l'ultima volta ascolterai anche da tua, ma non fa niente. No, questa musica la posso ascoltare quando voglio. Anche l'altra sera ero insieme ai miei amici a casa, i miei amici della mia città che non pronuncio nome. Esatto, sempre questa privacy. Certo, un po' di privacy va mantenuta. E ascoltavamo East is Red dei Milano. Detto anche il tittino, non so perché il tittino, anche però il tittino un po' è un tittino, sì. Allora, noi rientriamo nel titolo, chi ci ascolta in diretta lo sentirà per la seconda volta, ma quelli del podcast sarà tutta la novità, tutto che stiamo per dire adesso, perché stasera parliamo di due libri fotografici. Uno si chiama Niente resterà pulito, di Alberto Negrin, Burre Editore, cioè Biblioteca Universale Rizzoli. L'altro è Le scritte sui muri del 77 di Pino Meledandri. La casa editrice è molto bella, si chiama Cooperativa dei Sognatori Incalliti Edizioni. Molto bello, lui è un fotografo, Pino è un fotografo di San Benedetto del Tronto, che ha partecipato come fotografo, anche come fotografo al movimento del 77, ha fatto tutte queste fotografie in giro per la città. L'altra invece è Alberto Negrin, che fa di primo lavoro regista. L'ultime cose che abbiamo visto in TV sono state le fiction, quella su Perlasca era targata Negrin, ha fatto altre fiction e altri libri e altri film, e da 20-30 anni lui ha questa passione, no, 40 anni, ha la passione di fare fotografie sui muri, sulle scritte, sui manifesti politici o strappati. E io l'ho conosciuto una decina di anni fa, mi diceva che già aveva questo progetto di raccogliere tutti e di leggere la storia dell'Italia dai muri, dei muri strappati dalle scritte. Inoltre, in questo libro ci sono dei racconti, racconti, tra l'altro ne sono piaciuti parecchi, due di Luca Rastello, poi ci sono anche racconti di Marcello Fois, Cristian Raimo, chi altri c'è ancora? Raul Montanari e Piero Sorrentina, sì. Ci sono anche inframmezzati e ispirati in parte a queste scritte, non scritte murarie, qui si parla di veri e propri manifesti. E da questi scritte sui muri noi ripartiamo stasera in questa puntata numero 25, prima puntata del 2008. Strelica. Sì. Ne spariamo una di scritta subito, così sì, come ci viene. Sì, ne spariamo subito. Apro il libro a caso. Vai. Apro il libro di Meledandri a caso. No. Vai. Una sentenza. Questa proprio... Andreotti, falli tu i sacrifici. Andreotti è sempre lì, fermo, zitto. No, io farei la mozione. Facciamoli fare Calzolai. Calzolai fa sacrifici per tutti. Sì. Calzolai fa i tuoi sacrifici. Oppure attualizziamo, sociologi, attualizziamo. Mastella, falli tu i sacrifici. No, di più Calzolai. Perché poi... Mastella è un bell'uomo. Mastella è un bell'uomo. Calzolai è più bello. Calzolai è molto però bello. Però Mastella è più intelligente. Sì, ma la bellezza di Carbonai è una bellezza a questa sapore. La bellezza di Calzolai? Sì. Sì, mi sembrava che si confuso la lettera. Acqua e sapone. Carboni. sì, è per questo appunto il titolo Niente resterà impunito, tanto proprio da una scritta muraria del collettivo Acqua e Sapore. Sapete, noi facciamo tutti questi ganci, no? Ganci. Il titolo del libro di Negrin è Niente resterà pulito, da Niente resterà impunito. Cioè, si riferiva al calzolai che non si pulirà mai più dopo questa puntata. Forse. No, io mi pulisco anche il naso perché ce l'ho un po' muggioso stasera, sono un po' raffreddato. No, devo dire, posso dire una cosa privata di calzolai? No. Vai. Calzolai è una persona molto pulita, tant'è che... Come fai lo so, perché in queste feste di Natale è stato ospite a casa mia, ha portato la sua, il suo beauty case e ha lasciato accidentalmente nel mio bagno la sua essenza. Dell'erbolaio, tipo anche la marca, alla mirra e non mi ricordo cos'altro. Profumatissima. L'ho usata la mattina perché era troppo buona e me la sono ricomprata anch'io. Io sono comprata la crema per il corpo. Senti, sentite, questa rappresentante delle ce l'ho ancora addosso. Questa è mirra, non mi ricordo quanto. Me la sono ricomprata dopo. E quanto ti sembra? Ma invece della mirra ci poteva lasciare l'oro e l'argento. No, non so. L'incenso. In fondo io volevo ricordarti, portarti sulla mia pelle tutto il giorno. Io quella lì non me l'ero mai messa. Ce l'avevo nei beauty case, però non me l'ero mai messa addosso. Sotto Natale ti mettevi la mirra. Sotto Natale sì, insieme a Sandrini e un altro. Mm. Non mi ricordo, eri sociologo numero 3, se andavo a fare un giro. Hai già bevuto? Oh, Sandrini, mi piace. Io vorrei ricordare... Questo manifesto è triste, secondo me. Però. Andiamo un altro manifesto, dai. Quello Roma 1984. Scusami, sì. Quello di prima, Andreotti fa i tuoi sacrifici, era perché la politica dell'austerità nel 77 è voluta sia dal Partito Comunista che dalla Democrazia Cristiana. C'era questa politica dei sacrifici, di fare sacrifici. Chi li doveva fare, naturalmente, era sempre soliti disgraziati. È chiaro. Quello non cambiava, quindi. Quel di De Muri glielo dissero bello chiaro. Un altro questo è triste, cioè lui ora Negrin ha accolto anche l'aspetto, cioè fa male vedere un manifesto strappato, sì. Specialmente se sotto c'è Berlinguer, però lui lo ricorda in questo manifesto in cui il volto di Berlinguer, cioè, c'è più la carta. Roma 1984, c'è scritto: è morto il compagno Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista, un uomo della classe operaia. E poi sotto c'è scritto: una grande forza politica e morale della Democrazia Italiana, un uomo giusto. E però il manifesto è strappato proprio all'altezza del viso di Berlinguer. Però quindi Negrin ha accolto, non si può strappare questo manifesto, cioè strappeceli tutti, ma questo no. Cioè, perché Berlinguer, siamo stati un po' cerchio bottisti, perché prima ne abbiamo detta una che comunque Berlinguer era a favore della... Ma come va? Come Di Pietro ragazzi, cerchio che bottisti. si è incazzato perché è stato l'unico a incazzarsi, perché... Ma voi lo sapete che Di Pietro sta riscrivendo la Divina Commedia perché secondo lui ci sono troppi errori? No, bellissimo. Sì, dopo Benigni ci sarà Di Pietro che rilegge la Divina Commedia insieme al calzolai. Quindi diamo questa notizia. Il titolo però non sarà più la Divina Commedia, il titolo sarà Il divorzio ora è innaturale e dannoso. Ecco, allora io mi riaggancio, Verona 1974, sì, manifestino con Gustavo Ottoni a proposito del referendum, no, quello sul divorzio. Con Tony Staslav lo mando tra i paletti, sì, con una grandissima scritta: Tony, la famiglia deve vincere. E cos'è? Con Tony, anche tu vota sì contro il divorzio per salvare la famiglia. Poro Tony, che slalom che ha dovuto fare anche lui del campo. Però, allora, tu hai in mano Negrin, io in mano Ferenandri. Quindi che vedo molte foto, voi... devo dire che gli autori questa sera sono stati altamente lungimiranti e sono, secondo me, un po' arrugginiti dopo un mese di vacanza, in pratica, perché ci danno due libri fotografici e stiamo in radio. Ma come siete dei grandi, devo dire, cioè... Quindi doppio sforzo per raccontarvi quello, esatto, che è. Vi racconto, in queste foto del libro che ho in mano vedo molto di Ascoli, di San Benedetto, quindi molte città che anche conosco. Non c'è una scritta bellissima invece, che andava molto di moda ai miei anni quando facevo il liceo ad Ascoli, che è una scritta d'amore, molto bella, che anche il mio professore al liceo, che dolce, al quinto anno, fra del romanticismo, ci beccò questa scritta che era bellissima, dedicata poi da una mia amica, ho scoperto, Sara, diceva così: Sara, ti amo, ma senza fretta. Che bella cosa. Visto? E secondo me è favoloso. Sara, ti amo, ma senza fretta. Allora, dopo Chiara ti amo. Sara, potrebbe essere il titolo del libro che presentiamo la settimana prossima. Sara, ti amo, ma senza fretta. Facciamo così. Perché era un PC. Sì, Sara, che poi io conoscevo ai tempi, era una ragazza del secondo, terzo liceo, quindi aveva 16 anni. Quanto c'hai? Ma è vicina, ma insomma. Anni. Però è giusto che l'amore, poco più che adolescenziale, sia così chiaro, ma calmo anche, ti amo ma senza fretta. Porca miseria, ho attaccato una botta di poesia, guardate, è fantastico. Lei. No, è bella questa, anche perché è in controtendenza ai ritmi di questi tempi. Esatto. Sì, in controtendenza. C'è la gente oggigiorno, si innamora a 5 minuti. È vero. Cioè, fanno delle cose. Ci voleva lavorare con lentezza dopo questa cosa qua, però mettiamo... Scusate, chi è che dice 5 minuti? Però mettiamo... Io, spettatori in diretta, l'hanno già sentita, ma voi la risentite, la sentite per la prima volta. Voi del podcast eterno vi sentite Painted Black, la versione degli The Avengers. Vai, Hans, che non ci sei più. Perché non c'è più? My doctor's girl. I see a line of cars and they're all painted black. The flowers and the loved ones never to come back. I see the books on the head and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself, I see my heart is black. Un avviso importante a tutti gli amici della moglie di Mastella: d'ora in avanti la moglie di Mastella vi riceve a casa. Vi riceve a casa, non sino sta cambiando tutto, va bene? Vi riceve a casa, state attenti, non la invitate più a casa vostra, vi riceve a casa sua. Come gli siti mediche fiscali, lei può ricevere dalle 10 a mezzogiorno, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 4 alle 6, il resto. Ma io vorrei sapere quanto costa. Ragazzi, ora siamo in radio, via, mi piace. Sotto una montagna. No, ecco, e ci manca Enz, c'è poco da fare. Quando si vede che ci vuole uno, ci stia più dietro e basta. Eh? c'è perché lo sapete, eh? Era una notte di lupi feroci, l'abbiamo riempita di luci e di voci. E ancora una scritta sul muro. Leggendo le scritte murarie del 77, quella che avete appena ascoltato era di un indiano metropolitano abbastanza ispirato. La frase è stata messa anche tra gli alibi makers del Nero Passero, se vi interessa. Un po' modificata. Manifesto. Volantino è gioia. Ho fatto l'amore con un volantino, è stato un orgasmo logorroico. Alle femministe, cazzi e cazzotti. Viva il movimento sociale italiano. Che schifo. Io non la penso sta cosa, no, perché fuma bene, guardavo male perché mi figura bene. No, no, no, no, io non la penso, l'ho detta, ma era in questo in questa tu scritta. L'ha detta con una voce strana. No, adesso si fa, si decontestualizza, si taglia quel pezzettino lì e basta. E facciamo e si un, mette, un blob. Guardate cosa ha detto il sociologo Carzolai quella sera. Alle femministe cazzo e cara ci passi male. Sì. Ci passi molto male. Ti conviene molto fare male. Una smentita subito. Smentisci. La smentita costa 150 euro. No, la smentita mattina. Di modo a dire, come l'ex premier ci insegna, no, ma mi sono sbagliato, no, non pensavo così, tipo quant'è domenica, no, facciamo una Gentiloni sulla TV, allora a me non mi va bene più legge elettorale, cioè, palle, lunedì, no, ma io non volevo di mica quello, cioè, ne frega, capito, parliamo, ma è tranquillo, si fa così, vero, si fa. Che cosa? Si fa, dici una cazzata, poi dici, no, mi sono sbagliato. Ragazzi, oh, io. Mi sono sbagliato. Fanno sempre, no, ragazzi, ora, non ho, io comunque sia, quella cosa di prima non la pensavo mai. Così che reprime il Papa si droga, al governo vogliamo Paperoga. Quando la merda acquisterà valore, i poveri rimarranno senza culo. Roma Torino 4-0, ahimè non è un manifesto. Su Radio Catrame 19. He broke from them. And then he broke from himself. I'd never seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors, horrors that you've seen, but You have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. I have a right. Sempre i Milaven con Drink a Pint of Blood Today, non imparerò mai a dirlo, che ci fanno da sottofondo mentre continuiamo a sfogliare questi due libri fotografici. Avete avuto anche un aggiornamento in diretta di una partita che c'è stata stasera, siamo o non siamo anche una radio di servizio. Roma-Torino 4-0, io sarei anche del Torino, però pigliamola così. Pigliamola male, pigliamola male. Ma sì. C'era una bella scritta che è brutta questa, brutta, ma pure se mi ha fatto male. Milano 1976. Questa scritta, manifesto della DC, consegniamo ai giovani 30 anni di pace e democrazia. Questa è la nostra rivoluzione. E ce l'hanno consegnata, sì. E ce l'hanno consegnata 30 anni di pace. Come? Volate con le linee aeree della LSD Air Company. Ancora una scritta murale. Si stava discutendo su quei alcuni manifesti che abbiamo sentito. No, ce n'è uno veramente del proprio triste, cioè. Ci sono due agnellini con le orecchie ritti e sopra la scritta lasciateci vivere e sotto due o tre bistecche lasciateci vivere con tutte le armi da taglio e sotto ancora la scritta no, c'è un fucile, un fucile. Ma deve essere della Lega Antirisezione, eh sì, oppure va molto di moda invece della... no, antirisezione anti... Anti... Che è? Diciamolo, vita? vita-universale.org. Ma questo è il sito, chissà che associazione è. Vediamo. L'animalista. Gli animalisti, vediamo, poi lo vedremo. E oppure allora... il manifesto, diciamo, web che va di moda a Pasqua, due agnellini, uno fa l'altro, buona Pasqua, l'altro gli fa vaffanculo. Anche mio. Sì. E allora facciamo così. Vi posso riportare alla... a realtà? Sì. Perché i manifesti sono... parlo di realtà, ma è successa una cosa brutta dal nostro amico Bill Gates, mentre ieri il mitico Steve della... si chiama Steve? Steve Jobs, del il padron di Mac, presenta le cose fichissime come l'Air Mac. Della Apple, scusate, delle cose fighissime come l'Air Mac. Oggi la Microsoft oggi ha presentato un brevetto per un nuovo software, e ce lo dice il Times di Londra, che collegato con dei sensori agli impiegati permette di capire come tu stai di fronte al computer, come stai lavorando, rispetto al tuo benessere psicofisico, i battiti cardiaci e la produttività. Quando cartolare si fa una pippina. Madonna, mia mamma, ma tu sei fisso! No, siamo stati delle cose perché i manifesti sono. Guarda che tu sei messo male comunque, c'è cioè sempre una cosa. Cioè, ma poi posso dire ai telespettatori, allora, l'ultimo manifestino che c'è in questo libro qua era il gancio. Faenza 2008, l'ultimo manifestino si è preso Milano 70, poi c'è Faenza 2008, datemi un po' di topa Mauro S. Io non so chi l'ha scritto questo. Ma c'ha il chiodo fisso, porca miseria. Ma c'è la gente che sta male. Ma scusa, cioè... Ma te sei malato, c'è veramente quello in testa. Tu pensi che ci ha fatto una tesi sulla roba della sorveglianza? Della sorveglianza. Allora parlaci, non dire la tua. Ma la usano per fare queste cose. La usano per fare queste cose. È drammatico, perché qua abbiamo manifesti degli operai incazzati, giustamente, e questi qua ti vogliono mettere la mattina al lavoro il sensorino che dice cioè i battiti, così il tuo rendimento psicofisico è così, sei sereno. Non so se sei sereno o no. Cioè, due palle. Allora, vogliamo parlare della riappropriazione del tempo operaio? Sì. Il tempo, la riappropriazione del tempo operaio nasce negli anni 70, quando gli operai che facevano? Usavano, vedi, aumentavano l'efficienza del processo produttivo e invece di darle ai padroni questa cosa e contrattarla, se la tenevano loro giocavano a carte, è vero o no? Assenteismo, sabotaggio, guarda, cioè, queste erano questo, la differenza, esperimenti di lotta di classe. Bravo! La differenza tra gli anni 70 e il 2000 e un po' ormai, qual è? È che negli anni 70 ci si riappropriava del proprio tempo per fare la rivoluzione. Invece con questi sistemini qui ci si perde tempo per farsi le pippine. La gancia è questo. Vedi che se no sempre lì anche bene. Però è giustissimo, tu vedi che le cose le sai alla fine. Le sai. Abbreviamo il concetto. Abbreviamo il concetto. Allora, a questo punto qui è arrivata il momento di una canzone. Comunque, italiana. Scusami, canzone. Mo, visto che si sta parlando di questo, Bill è messo male. Ma Bill ha abbandonato. Ma non l'hai visto? Bill Gates ha abbandonato la Microsoft in pensione. No, in pensione, è messo male. Ma guarda. Cioè, guarda la foto. Se manco Mike Buongiorno, cioè, no, secondo me non sta bene. È messo male perché nel giorno dell'addio ha chiamato Slash, quello ex The Guns N' Roses, per farla solo di chitarra insieme a lui con una chitarrina finta. Sta male Bill Gates, sta male forte. Cioè ieri Steve Jobs stava come un grillo, sta là con la magliettina sempre col collo coreano, stava come un il computerino volava, lui sta messo male. Sta invecchiato, è invecchiato. Sì, meno male. Ha preso qualche virus forse? Speriamo. Ho preso un virus ai PC, lo so che non c'entra nulla, però mi fa incazzare questa cosa. Bene, così impari a usare il PC. È La pioggia che va di Federico Fiumani, una canzone tutta italiana, scaricato dal suo sito, Diaframma, cercatelo su Google. È La pioggia che va, non è sua la canzone, però lui la rifà molto molto bene. Vai via. Sotto una montagna di rifiuti e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se guardate oltre lo sguardo, dietro a un muro di cartone, troverete tanta luce e tanto amore. Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie dipinte di blu. È la pioggia che va e ritorna il sereno. Oh yeah, è la pioggia che va e ritorna il sereno. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo avanzeremo di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie dipinte di blu. È la pioggia che va e ritorna il sereno. Oh yeah, è la pioggia che va e ritorna il sereno. Non importa se qualcuno nel cammino della vita sarà preda dei fantasmi del passato. Il denaro ed il potere sono trappole mortali che per tanto tanto tempo han funzionato. Ma noi che stiamo correndo non possiamo cadere più giù. Ma non vedete che il cielo diventa ogni giorno più blu. È la pioggia che va e ritorna il sereno. Oh yeah, è la pioggia che va e ritorna il sereno. Oh yeah, è la pioggia che va e ritorna il sereno. Grazie. In diretta su Radio Catrame 19. sussurrato sì. nel frattempo sul fading sì. sulla sfumatura della musica sempre dei grandissimi Milhaven, questo è Simple Plan. C'è stata una proposta sì una perché proposta c'è potere salciccia. Aspettate, questa va detta che ci abbiamo qui di proprio accanto alla tastiera il libro di Pino Meledandri. L'abbiamo detto in 8 modi diversi il suo cognome? No. Meledandri. È che sono tanti, sono tutti parenti. Meledandri. Meledandri. Pino Meledandri. Pino Mele, oh, che leo. E c'è questa scritta sul muro che è... Berlinguer è buono, mangiamolo. E poi grandissimo, su tutto il muro c'è potere salsiccia. Queste erano favolose, queste scritte lì, dai. Erano veramente forti. Ma la proposta di cui dicevate qual era? La proposta di cui sopra era, c'è una congiunzione astrale a Parla come scrivi, cioè tutti quelli che vengono devono essere rigorosamente nel segno dei gemelli, altrimenti non ci possono stare. Tant'è che io sono dei gemelli, Strelling è dei gemelli, Calzolai è dei gemelli, è nato lo stesso giorno di Strelling. C'è anche un bel raffreddore. Sì, c'è anche un bel raffreddore. Sandrine è dei gemelli, siamo tutti dei gemelli. Siamo in otto. Siamo in otto. Allora, prima puntata 2008, perché visto che siamo tutti gemelli, le sorti di Radio Cat di Parla come scrivi sono... Allora, l'oroscopo dei gemelli nel 2008 è... piuttosto disgraziato. Maretta Budella, Paolo tutti da anni, puttane. Ma anche Paolo Fox dice. Allora, che no, aspetta, allora, io ho fatto un'indagine perché il primo oroscopo, quello di Vanity Fair, sì. che è comunque un bel oroscopino, sì, diceva comunque. Cioè, è un bel oroscopino. Diceva che comunque faceva tutto l'anno, mese per mese. In sintesi, che succede ai gemelli? Sull'amore siamo messi maluccio perché fine gennaio si litiga. È vero, Strelick? Sì, e noi possiamo dimostrare che siamo già in ingresso per litigare ferocemente. Se si passa a gennaio, tutta l'estate è una disgrazia. Poi l'estate non sta in ferie, 3 mesi. Sandrini, se ti va bene, passi l'estate, a dicembre. Cioè, se tutto se va bene, quindi cioè, è tutto. Poi, sì, poi ci sono queste cose intrecciate, perché da una parte l'amore è disgraziato, dall'altro coi soldi dice che ce ne saranno veramente tanti, soprattutto in primavera. Tanti soldi, però ti sei perso già il moroso, l'amorosa, perché stai litigando a casa come un disgraziato. Ci compriamo la polacca. Ma poi la cosa inquietante. Ci compriamo la polacca. La cosa inquietante è che se uno arriva una coppia agosto sana e salva, se arrivi sana e salva agosto, ma dice che l'oroscopo, guardate che se il vostro amore è un po' malandato, comunque voi settembre non ci arrivate assolutamente, non ci arrivate. Se ci arrivate settembre è il momento che tutti i gemelli ci sarà una grossa cosa seria, tipo comprarsi una casa. Ma è l'ascendente che questa cosa si va a cosa seria un personaggio? No, seria nel senso che non si capisce se uno, una coppia gemelli, arriva a settembre, ha scampato quest'anno disgraziato, alla fine dice vabbè, mo ci possiamo anche impegnare a fare questa cosa, o se viceversa due gemelli che stanno insieme si rompono il cazzo, ti caccio di casa e quindi tu poi ti ritrovi senza casa e allora ti compri la casa. Perché nel frattempo ti sei fatti i soldi a febbraio e marzo, i soldi neri. Però i soldi neri, i soldi nel senso tanti, non neri come i soldi, come le lenticchie, no? Che te le mangi a Capodanno, tu hai mangiato le lenticchie e poi fai i soldi. E fai i soldi a Capodanno. Io ho mangiato le lenticchie a Capodanno, voi? Io ho fatto indigestione di lenticchie. Diverson? Stanic? Sì? Calzolai? Non me lo ricordo. No, significa quindi un poraccio. E manco soldi. Però noi la rosa buona, c'era 2 soldi una volta. Noi vogliamo bene solamente a Rob Bresnahan. Voi. Noi vogliamo bene solamente a Rob Bresnahan, l'oroscopo dell'internazionale, non solo perché uno che scrive bene ci fa sempre piacere, e poi perché lui non l'ha messa poi così catastrofica. Tant'è che in questa settimana ci siamo. 11-17 gennaio, ve lo sparo, l'oroscopone. È il momento giusto per scoprire quello che ti è stato tenuto nascosto, per strappare ogni maschera e per arrivare alla verità sepolta sotto la propaganda ufficiale. Ma Mastella dei gemelli, no. Probabilmente ti attirerai la buona sorte anche andando in cerca di tesori nascosti, di chiavi perdute o di collegamenti mancanti. Per raggiungere questo obiettivo nobile, anche se furtivo, tieni a mente il consiglio dell'inventore George Washington Carver. Se l'ami abbastanza, qualsiasi cosa ti rivelerà i suoi segreti. Ma era bello, stai. Sì, diciamo era buono. Cioè, se l'ami abbastanza, questa persona, questa cosa, troverai che no, qualsiasi cosa di sé. Ma che ce ne fregano dei segreti di quei? Oh, Mauro, prima... Per esempio, se uno ti mette le corna da 5 anni... Capire questa cosa potrebbe essere carino. Se tu scopri. Potrebbe essere carino, ti potrebbe anche venire un infarto. Se tu scopri che ad esempio il tuo compagno c'ha 300.000 euro in banca, è una cosa carina. Che potrebbe per esempio, essere interessante. Mauro. No, perché il tuo compagno ce l'ha che avrei bisogno di un prestito. Non c'ho niente, io sono sotto in banca. Quindi. Il mio compagno, sì, ce l'ha, è molto ricco il mio compagno, per questo l'ho scelto. Per esempio, Mauro, te l'ami abbastanza, sì. Ecco, sì. Allora questa settimana ti accorgerai che è o ne è una donna, ne è un uomo. Tu ti sei messo un uomo. Tu sei ignorante. Allora, ragazzi, spariamocela così. Black Knight. No, Sandrina è innamorato! Via! Canzone. Black Knight, River City, 10 Lines. Porta fortuna perché è gobbo. Siamo realisti, chiediamo l'impossibile, ma siamo seri, ridiamo. Pipe e i pensionati, canne e ragazzini, nuclei sconvolti, clandestini. Sta per uscire il film su Andreotti di Sorrentino, il Divo, in primavera sarà pronto, aspettiamolo, Dipingi di rosso il tuo pulotto, data a prova, gruppo 35. Lo scazzo è gioia. Dal Tibet al Perù, tutti i lama a testa in giù. Potere dromedario. La fantasia distruggerà il potere e una cagata lo seppellirà. prima parte del muro. L'Italia è il paese più libero d'Europa. Cossiga. Chi l'ha scritto? Cossiga. Seconda parte del muro. Risponde: sono d'accordo, Kapper. Io sono mia. La liberazione non è un'utopia. Donne, dillo forte, io sono mia! Per un giorno, per un momento, l'università è stata nostra. In futuro lo sarà sempre. Il rettore deve essere operaio. Sulla testa dai libri, coglioni. Liberiamo la nostra creatività. Distruggiamo questa società. Comunismo. D'arrivo di questa puntata numero 25 di Parla come scrivi, con inizio bicefalo, come si può sì, dire. Sì. Ci sono stati due inizi, uno in diretta e uno in differita, anzi uno a uso dei podcaster futuri. Una falsa partenza, poi siamo partiti, siamo arrivati. Forse siamo arrivati davvero. Sembrava un'intervista a un ciclista. Sì. Ma la partenza come sta? Ma la partenza eravamo io e Sandrini, ma Sandrini tirava forte. Io l'ho seguito fino alla cima della montagna, poi è sceso giù in picchiata perché lui è un discesista, ma fortissimo in discesa. Perché la montagna... rischiando anche, abbiamo visto dalle immagini. Sì, sì, io l'ho visto, si è allontanato, è troppo forte questo campione faentino, è eccezionale. Poi sappiamo che Faenza comunque ha una lunga tradizione. Grande tradizione ciclistica. Sì, anche come la Toscana, anche nel paese da cui lei proviene. Certo, certo. Anch'io sì. Sono cresciuto per i Poggi, con la bicicletta, sai. Sì, non mi faccio ripensare a qua. Anche io sono stato giovane. Sì. No, ma noi di Radio 419 ci fa piacere intervistare anche un ciclista, il famoso... Io oggi ho 47 anni. 47 anni? 47 anni? Però lo sai, ti porto benissimo. E quante biciclette c'ha? C'ho 7 biciclette. Ce l'hanno, due ce l'hanno per Mihani, anche Mihani l'hanno in bicicletta. In famiglia mia vanno tutti in bicicletta. E che lingua parlano i tuoi cani? O abbaiano, o chi parlano. O perché Sandrini è messo male, non si sta riprendendo. Ma voi nel questa cosa del doping nel ciclismo, cosa... No, noi affrontiamo il doping tra i sociologi. Quindi? Quindi al posto... Tutto positivo. Mettiamo le placche di titanio nel cervello dei sorsoli. Ma buono comunque. Potrebbe essere un manifesto. Mettiamo le placche di titanio nel cervello dei sorsoli. Perché tu vado qua a scriverlo su un muro qui? Qui fuori dal vagonaccio. Perché se no mi sparano. Se no ti sparano e farebbero anche bene. E farebbero anche bene a spararti. Però non ti sparerà nessuno, perché il nostro caro sociologo numero 2 è un sociologo che, cioè, è veloce a burle pronto. Io l'ho visto correre. C'ha una cosa. Sembra un grillo. Allora, visto che stasera. Un rotto grillo. Non è pronto, no, scatta veloce, non tu lo vedi. Ta-ta-ta-ta-ta. Noi siamo. Io, per esempio, sapevo che questo stava a Faenza. Ha fatto 2 o 3 salti, dopo mezz'ora stava qua. Ha tagliato un mezzo a greppa all'Appennino. Si lanciava da una piancia a quell'altra come un grillo gigantesco. Arrivava qua alla velocità di 200 km orari, passando due greppi. Cioè, voi non lo potete vedere. In bicicletta? In bicicletta, a piedi, lui è tutto uguale. Insomma, va, viaggia. C'ha. Bello, veramente bello. Purtroppo non si possa vedere. Come questi manifesti. Se cercavo di raccontarvelo anche stasera, ragazzi. Speriamo. Concludiamo l'intervista così. Speriamo d'avercela fatta. E concludiamo questa intervista. Ritorniamo nella parte del ciclista. Sì. Come il traguardo, come. Il traguardo lo vedevo da lontano, ma non arrivava mai. Non arrivava mai. Era in un tratto molto dritto. Un tratto era a fondo, sembrava. Poi correvo, non era nemmeno il traguardo, era un coso, un cartellone pubblicitario. Autogrill, c'era scritto autogrill. Ho sbagliato strada. Era un'autostrada. Sì, credevo, infatti andava forte, ma. Andava di forte. Ma scusi, lei stava nella corsia d'emergenza o stava proprio. Io non devo essere. Così sul passo problema. Proprio. Sì, però andava più forte di me, andava più forte tutti quanti. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. E ora via. E ragazzi, e vi si saluta. Io so solo. Sì, siamo arrivati alla fine, diciamo che e mettiamo una canzone finale, siccome abbiamo scherzato, siamo qui col sorriso sulle labbra, noi mettiamo una canzone che si chiama Einstein Smiling, cantata dai Los Fuocos. Tutta sta roba qui poi la trovate liberamente scaricabile dalla rete, mettiamo i credit, mettiamo qualche informazione sui gruppi, insomma, sapete, vi facciamo vero delle. Se ci avete delle domande da porci, da porci. E qui siamo veramente il livello più basso della radio. Noi possiamo rispondervi. Io, che sono il sociologo. Come si dice il sociologo? Ah, mi imbroglio. Sociologo. Come la comandina. Io sono. Io che sono il sociologo numero uno, posso dare delle risposte. Però, ecco, nel caso in cui io non ci sia, anche il sociologo numero due vi può rispondere al mio posto. Perché giustifichi già questa possibile assenza? No, per esempio, se sono malato, perché c'ho il raffreddore, stasera io ce la farebbe alta, ragazzi. Sì, dici giorni io sì. Lo vedi? Cioè, mi vedi bene o mi vedi male? Ti vedo un po' male, c'è un po' il naso rosso. Mi sta male duro, mi sto stropicciando il naso. E allora facciamo così, canzone finale, noi dal vagonaccio numero 25. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima. State bene, se ce la fate, se potete, comunque godete. Potere salsiccia, sempre. Sì. Einstein Smiling, buonanotte. Hans, non sei. Ci ha fatto sapere niente. Vedremo la prossima puntata. Ciao. Ciao. We'll be right back. Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale.